in primo piano. È il momento dei giornali in edicola, martedì 28 giugno. Le aperture dei quotidiani sono dedicate quasi tutte alla questione manovra finanziaria. Siamo alla stretta finale, siamo alla resa dei conti anche politica, così pare, tra Giulio Tremonti, Silvio Berlusconi e Umberto Bossi. Questo raccontano i giornali. Allora vediamo i titoli, il Sole 24 Ore, IRAP via dal 2014, IVA su di un punto. Sono le ipotesi ormai quasi definitive della manovra. Per il Corriere della Sera, alta tensione sulla manovra. Per Repubblica, Tremonti pronto alle dimissioni. Il Giornale, meno tasse, ci siamo. Libero, anche Libero punta su Tremonti. Giulio vuol farsi cacciare. Il Messaggero, fisco, il piano della riforma. Chi si concentra invece sulla TAV e la Stampa, TAV al via dopo la battaglia. Per il Fatto Quotidiano invece TAV, trappola alta velocità. L'Unità invece mette la foto della residenza del Premier ad Arcore. Casa chiusa, questo è il titolo. Per compiacere il Premier è il processo Rubi con il PM Forno che ha usato questa parola, bordello, che ha fatto suscitare molte polemiche. Il manifesto per un pugno di dollari è il titolo sulla TAV, blitz militare all'alba in Val di Susa. Questi sono alcuni dei titoli dei giornali. Da dove voglio partire come segnalazioni? La prima viene dagli Stati Uniti, dove c'è stata una sentenza della Corte Suprema americana che anche in Italia ha sicuramente colpito molti giornali, visto che sia il Corriere, sia Repubblica, sia la Stampa vi hanno dedicato una pagina. Riguarda la vendita di videogiochi violenti ai ragazzini, ai minorenni, perché c'era una legge della California voluta dall'allora governatore Schwarzenegger, secondo la quale era vietata la vendita di giochi violenti ai minori. Sapete quei videogiochi nei quali i protagonisti ammazzano in maniera anche truculenta gli avversari? Che ne so, i titoli già fanno capire: Mortal Kombat o Manhunt. Questi sono alcuni dei titoli, no? Oppure Call of Duty, Modern Warfare, cioè titoli già agguerritissimi e videogiochi molto molto violenti. Ebbene, questa legge, che peraltro non è mai entrata in vigore, c'è stata un'opposizione alla Corte Suprema, la Corte Suprema degli Stati Uniti ha detto non si può vietare la vendita di videogiochi, ancorché videogiochi violenti, perché questo lede l'emendamento numero uno, vale a dire la libertà di espressione. Ed ecco allora i titoli: videogiochi violenti ai minori è libertà di espressione, così titola il Corriere. Oppure Repubblica con il reportage di Vittorio Zucconi, videogiochi violenti come Cappuccetto Rosso, salta il divieto ai minori. Anche una pagina sulla Stampa, videogiochi violenti, la Corte Suprema cancella il bando per i minorenni. Tra l'altro c'è un'intervista sul Corriere della Sera a una psicologa, Chiara Volpato, docente alla Bicocca di Milano, che da anni studia l'influenza dei videogiochi violenti sui comportamenti e dice è una decisione sbagliata, perché abbiamo notato tra i ragazzini un nesso di aumento di aggressività di chi usa questo tipo di giochi, un'aggressività che spesso si traduce anche in comportamenti sessisti. Per esempio, se si chiede a chi ha giocato di dare un giudizio su una molestia sessuale, questa persona tende a minimizzare. Insomma, questa decisione che proviene dagli Stati Uniti, dalla Corte Suprema, è molto criticata in America, ma come vedete anche in Italia. E poi, vabbè, voglio fare questa segnalazione perché come giudicare? Io ve la do così. Ieri è andata Un Giorno da Pecora su Radio 2, il leghista Speroni, uno che anche qui ai nostri microfoni, Francesco Speroni, si è lasciato andare a dichiarazioni, in questo caso da noi, sugli immigrati, che poi hanno fatto poi il giro dei giornali e delle agenzie di stampa. Ieri Francesco Speroni ha detto, è uno, Francesco Speroni, che dice: io spesso vado veloce in macchina quando è consentito, per esempio dove? In Germania, dove non ci sono i limiti di velocità. Anche i conduttori gli hanno chiesto: beh, ma a quanto ammonta il suo record? Avevo detto un tempo 313 km all'ora, ma devo aggiornarlo perché sono andato a 316 km orari in Germania, laddove non ci sono i limiti di velocità. È tutto compiaciuto, ha aggiunto. Si può vedere anche il video su YouTube, se uno vuole. Che ne so, magari uno mette Speroni, 316 km orari in Germania. Il record di Speroni in auto a 316 km all'ora. Ebbene sì, non ci sono i limiti di velocità. Deborah Serracchiani, che era in studio con lui, ha detto: vabbè, non ci saranno i limiti di velocità, ma c'è sempre il buon senso a cui fare riferimento, no? E Speroni ha replicato: io non violo le regole, la regola tedesca mi consente quella velocità. La questione del buon senso è un altro discorso, ognuno ha il suo buon senso. E io vado veloce quando non c'è nessun altro, i rischi ci sono dappertutto, magari uno sta a casa comodo sul divano, gli viene un terremoto e muore. 316 km all'ora, non provate a imitarlo neanche in Germania, per carità. In primo piano. Allora, sono i giorni decisivi per il varo della manovra, quella che sta facendo anche litigare Tremonti, Berlusconi, Bossi, e secondo tutti i quotidiani oggi ci sarà la resa dei conti politica, con un vertice a 3 alle 12 nel quale ci vuole l'ok preventivo alla manovra che dovrebbe essere approvata giovedì. Intanto i contenuti della manovra, allora andiamo sul Sole 24 Ore che titola oggi in apertura: IRAP via dal 2014, IVA su di un punto. Di cosa si tratta? Racconta tutti i dettagli Dino Pesole a pagina 3. Tre aliquote IRPEF via l'IRAP dal 2014, questo è il titolo dell'articolo all'interno. Il 2014 è l'anno in cui, oltre a raggiungere il pareggio di bilancio, dovrebbe intervenire un'altra sostanziale novità per il nostro paese: l'abolizione dell'IRAP, scrive Dino Pesole. Imposta introdotta nel 98 in sostituzione di 7 imposte e contributi, da allora oggetto di critiche e pronunce della magistratura. Di abolizione dell'IRAP si parla da tempo, è prevista anche nel programma elettorale con cui l'attuale governo ha vinto le elezioni del 2008, ma finora non si è fatto nulla per evidenti motivi di gettito. L'IRAP infatti fa guadagnare 33,5 miliardi di lire, di euro, scusate, ovviamente, e dunque la sua parziale abolizione impone di individuare le misure compensative. L'indicazione del 2014, scrive ancora Pesole, quale data presunta per la soppressione del tributo non è casuale, poiché l'intenzione del governo è collegare strettamente l'operazione al percorso di attuazione del federalismo fiscale. E poi, oltre all'abolizione dell'IRAP, le ipotesi sono queste: tre aliquote IRPEF, che dovrebbero essere queste, 20, 30 e 40%. E nella bozza della manovra c'è anche l'incremento di un punto delle aliquote IVA del 10 e del 20%, dunque passerebbero all'11 e al 21%. Questo sono gli elementi più importanti, quelli che hanno suscitato anche il dibattito che diventa un dibattito politico davvero serrato, perché questo è l'aspetto tecnico, diciamo, della manovra, ma la questione politica, beh, che sia la giornata decisiva del confronto o scontro politico delle due visioni della manovra da parte di Tremonti e Berlusconi, beh, questo è raccontato da tutti i giornali. Alcuni titoli sono esemplificativi: Repubblica, ricordo, titola in prima pagina Tremonti pronto alle dimissioni, ma guardate anche Libero. Il titolo di Libero di prima pagina: Giulio vuol farsi cacciare. Oppure il titolo di prima pagina della Padania, perché anche la Lega pare che abbia dimostrato e abbia mostrato critiche nei confronti di questa manovra. Governo, il giorno della verità. Così titola la Padania. La Lega fa il punto della situazione, i conti non tornano. E basta leggere qualche retroscena del resoconto politico per capire che la situazione rimane molto molto tesa. Iniziamo per esempio da Repubblica: Giulio adesso minaccia le dimissioni, non accetto di fare la fine della Grecia. E Francesco Bei, che racconta a pagina 3, chi ha sondato Tremonti riferisce che il ministro resta impermeabile a ogni richiesta di ammorbidimento della manovra. Chi parla in questi termini non ha capito cosa sta succedendo sui mercati, ha detto Tremonti. Tremonti avrebbe, secondo Repubblica, addirittura deciso di disertare il summit oggi previsto a Palazzo Grazioli con Bossi e Berlusconi, giocando la carta finale, quella minaccia di dimissioni che dovrebbe riportare alla ragione i due azionisti del centrodestra. Ma questa volta la posizione di Berlusconi sarebbe questa. Questa volta Giulio, se insiste, potrà essere sostituito. E sui giornali già circolano la foto e il nome dei possibile sostituto, ovviamente nello scenario ipotizzabile che Tremonti vada allo scontro e proponga le dimissioni e vengano accettate stavolta da Berlusconi, il nome del possibile sostituto Lorenzo Binismaghi, cioè colui che in virtù della nomina di Draghi a capo della Banca Centrale Europea è in uscita dal board della stessa Banca Centrale Europea e viene dato già per possibile sostituto di Giulio Tremonti. Ma guardate anche su Libero, Barbara Romano a pagina 4, se minaccia l'addio, stavolta gli dico di sì. Questo è il virgolettato che viene attribuito a Silvio Berlusconi. Verso lo scontro finale tra Premier e Tremonti, Silvio fa il duro, di fronte a un'ennesima offerta di dimissioni, stavolta accetto. E così anche sulla Stampa, oggi il vertice a tre, a Bossi l'ultima parola, al Senatur non vuole tagli agli enti locali, racconta Ugo Magri, la leggenda di Tremonti, ministro intrattabile, che mai acconsente di venire a patti, addirittura pretende di approvare le manovre a scatola chiusa, l'uomo solo al comando, contro cui si scaglia su un giornale di centrodestra l'economista più in auge presso il Cavaliere, Antonio Martino, questa caricatura subirà oggi, verso l'ora di pranzo, un colpo, forse definitivo, perché dei sacrifici da imporre all'Italia Tremonti dovrà discutere a fondo in una via crucis di snervanti riunioni prima di portarli giovedì in Consiglio dei Ministri. Questo è l'esordio dell'articolo di Ugo Magri a dire allora cosa succederà. Tremonti si piegherà da questo punto di vista anche caratterialmente, accetterà oppure ci sarà questo scontro portato all'ennesima potenza. Anche per il Corriere della Sera Berlusconi non cede, il titolare del tesoro pronto allo scontro. Questo è lo scenario anche per il Corriere, per Paola Di Caro, raccontato a pagina 6, vale a dire un Tremonti che nella mattinata di ieri è arrivato a minacciare le dimissioni, anche per l'attacco avvenuto dal sottosegretario Crosetto. E raccontano di un Berlusconi deciso a ottenere alla fine del tourbillon di incontri almeno un risultato, quello di un premier che fosta il sostegno dell'intero suo partito, degli alleati, costringe il ministro dell'economia a portare in Consiglio dei Ministri una manovra condivisa, frutta di un lavoro collegiale. Berlusconi è certo stavolta anche Bossi farà la faccia feroce come lui, Tremonti dovrà piegarsi. Insomma, questo è lo scenario col quale si dovranno vedere, sempre se si vedranno. Repubblica dice che Tremonti è pronto anche a disertare questo faccia a faccia, questo incontro a tre, si dovranno vedere oggi a mezzogiorno per parlare di manovra. Registro sempre su questo tema il vicepresidente della Camera Lupi del Popolo della Libertà, che è intervistato dal giornale, dice Tremonti sbaglia sul metodo, deve ascoltare di più. Insomma, continuano quindi anche gli appunti, in alcuni casi come ieri Crosetto, attacchi molto duri, una manovra da psichiatria. In questo caso Lupi fa un rilievo un po' più sfumato, però comunque dire a Tremonti deve essere un po' più collegiale nelle sue decisioni. Mentre il ministro Rotondi, intervistato da Libero, dice, guardi, alla domanda, il ministro Tremonti ha mai fatto girare le scatole? Una volta in cui mi trattò con sufficienza, risponde Rotondi, gli dissi, che te la pigli con me che sono l'unico che parla bene di te? E lui mi rispose, vuol dire che sbagli qualcosa. E poi Rotondi dice, attenzione però Tremonti a non cavalcare l'anticasta, la prosopopea dell'anticasta fa grande grillo ma travolge i grilli parlanti. E al che Barbara Romano di Libero dice, scusi, lei difende la casta dei parlamentari, non crede di diventare così impopolare? Tanto più impopolari di così, risponde Rotondi. Il deputato oggi è uno sputtanato che va per la pagnotta. Questo è il giudizio che ci siamo cuciti addosso per merito dei comici e delle trasmissioni televisive. Ma anche per merito vostro, dice Barbara Romano. Beh, può darsi. Intanto io però segnalo un passo avanti. Un tempo si accusava i politici di rubare, oggi gli si rimprovera solo di avere dei privilegi previsti dalla legge. A proposito di questi privilegi, noi ne parleremo di uno dei privilegi considerato più inaccettabile da chi fa l'anticasta, accettabile invece da chi lo difende, quello dei vitalizi dei politici. È il tema del nostro sondaggio, ne parleremo alle 8.30. Due inchieste sullo sfondo di questo scontro politico che si profila, almeno a leggere i giornali, sono quelle della P4 e quelle del caso Ruby, e che sono trattate dai giornali. Beh, intanto quello della P4, c'è ancora la questione della Guardia di Finanza, davvero nell'occhio del ciclone, perché secondo la Procura di Napoli, nell'inchiesta in cui è coinvolto Luigi Bisignani, la Guardia di Finanza, alcuni della Guardia di Finanza potevano essere le talpe di aver dato le soffiate agli indagati. Fate attenzione perché c'è un'indagine su di voi. Il Fatto Quotidiano oggi fa sicuramente una sorta di scoop su questo tema. La P4 è nuda, il titolo a pagina 4, ne parlano Marco Lillo e Antonio Massari. Che cosa ha fatto il Fatto Quotidiano? Dice: siamo riusciti a controllare, a guardare sotto gli omissis i verbali completi della P4. Ecco qui, allora, nei verbali integrali depositati nell'indagine P4 ci sono altri nomi delle talpe della Guardia di Finanza, oltre a quelli accusati, vale a dire il generale della Guardia di Finanza Vito Bardi e il capo di Stato Maggiore Michele Adinolfi. Nei verbali emerge il nome di un altro personaggio, scrive il Fatto. Si tratta di Giuseppe Lasco, ex finanziere, direttore per la sicurezza aziendale di Terna. Nei verbali omissati dai PM, Lasco viene descritto in stretti rapporti con i vertici di Finanza e Carabinieri e vicino a Paolo Berlusconi. Mentre ci sono anche un attacco al sottosegretario Daniela Santanchè, nei verbali del 14 marzo 2011 Luigi Bisignani racconta della concessionaria di pubblicità di Daniela Santanchè, Visibilia, parla di questo. Bisignani racconta Flavio Briatore: se non era per me, gli Angelucci la facevano fallire per fatture false. Si riferisce alla Santanchè. Se non fosse stato per il mio intervento, facevano fallire la società per bancarotta, tanto che lei ha dovuto addirittura pagare delle cambiali, 3 milioni e 2 di cambiali. Così il titolo La P4 è nuda, l'articolo a pagina 4. Mentre sull'inchiesta di Ruby c'è questa frase che ha fatto scalpore con la... In realtà il processo è il processo quello a Emilio Fede, Lele Mora, che attualmente tra l'altro è detenuto per bancarotta, e Nicole Minetti. La ricostruzione dei magistrati è questa. Queste tre persone avevano istituito un sistema e hanno usato, il PM Forno ha usato la parola bordello per procacciare delle ragazze per il premier Silvio Berlusconi. E ovviamente questa parola bordello ha fatto suscitare un coro di polemiche. L'avvocato Nicolò Ghedini parla di ricostruzioni totalmente infondate, ma anche la politica reagisce. Iole Santelli: vergognoso usare certe parole. L'Unità mette in prima pagina la foto della residenza del premier ad Arcore col titolo Casa chiusa. E alla fine, a fine giornata, il PM Forno di Milano, ignaro fino a tarda sera del clamore, ha detto: non ho mai detto che Arcore era un bordello, ho usato il riferimento storico solo in relazione alla legge Merlin. In primo piano. Avete sentito nelle notizie del traffico, ci sono ancora problemi per le manifestazioni no TAV, e sicuramente la questione della TAV e delle proteste contro l'alta velocità è ancora oggi molto sviluppata dai giornali. Ci sono delle foto anche a testimonianza degli scontri molto duri che ci sono stati ieri per cercare di, e si è riusciti in questo, liberare il cantiere e dunque far iniziare i lavori per l'alta velocità, anche perché si entro il 30 giugno altrimenti si perdevano dei fondi, finanziamenti dell'Unione Europea. Cariche e sassi, guerriglia in Valsusa, 90 feriti, poi via alle ruspe. Questo è il titolo per esempio di Repubblica, sono le foto anche di un poliziotto che insegue Turi Vaccaro, che forse avete visto, no? A torso nudo, a piedi nudi, capelli incolti, barba lunga. Alla fine viene fermato, ha cercato di mettersi un po' come una scena che ricordava, una scena ben più storica, quella del cinese che cercava di fermare a piazza Tiananmen un carro armato, ha cercato di fermare frapponendosi davanti a una ruspa. Tra l'altro C'è la politica che reagisce, per esempio l'ex sindaco di Torino Sergio Chiamparino dice: io ora che sono fuori dico, beh, ma meglio così, la polizia ha ripristinato la legalità, qualcuno aveva cercato di istituire la Repubblica Autonoma della Maddalena e quindi le forze dell'ordine hanno giustamente reagito. Ci sono anche gli operai del cantiere, io proprio mi chiedevo ieri, vorrei medesimarmi negli operai del cantiere, perché poi il cantiere è stato aperto, coloro che sono andati lì per lavorare. Infatti la stampa, l'intervista, pagina 4, gli operai del cantiere, lo shock delle tute arancioni, è una follia. Inizia così Mario, che prega il cronista, per favore niente cognome, ho 52 anni, tra l'altro si presenta con un paio di graffi sul viso, gli occhi sbarrati e il viso incredulo, io vivo in queste zone, non metta come mi chiamo. Era proprio lui che doveva guidare il granchio d'acciaio che con la sua chela aveva il compito di strappare i jersey in cemento, i pannelli antirumore sui lati opposti per aprire altrettanti varchi, no? E Mario racconta: ma come si fa? Che c'entriamo noi? Siamo venuti qui per lavorare, perché ci prendono a sassate? Vivevo qui, prima lavoravo in Liguria, poi l'appalto è saltato, sono tornato verso casa, è un'opportunità. Questo dice anche un altro operaio, 44 anni, tuta arancione, camion scortato dai baschi verdi della Guardia di Finanza in assetto antisommossa. Anche lui dice: per carità, non dite, non scrivete il mio cognome. Insomma, operai che sono andati a lavorare per il cantiere si ritrovano in questa situazione. Tra l'altro il Sole 24 Ore racconta, pagina 14, tutti i dettagli del nuovo progetto con Giorgio Santilli, con il progetto low cost, taglio da 2,5-3 miliardi, poi la partita con Parigi. Di cosa si tratta, racconta Santilli? Si tratta di un progetto low cost che è stato chiesto riservatamente un anno fa da Giulio Tremonti per fare l'alta velocità con possibili risparmi. Lo studio è stato svolto in gran segreto, come tutta l'operazione low cost, affiorata solo 15 giorni fa alla ribalta delle cronache, e il documento stima in sostanza un taglio di costi per la prima fase che non va oltre il 5%, con il rinvio della seconda canna del tunnel, aggiunge un massimo del 18% di tagli, con la rinuncia al tunnel dell'Orsiera sulla tratta Torino-Susa. In tutto si resta sotto al 25%, una cifra ancora lontana però da quel 40-50% che il governo chiede per prendere in considerazione la finanziabilità di un'opera dal costo complessivo di partenza ormai certificato intorno agli 11 miliardi di euro. Comunque tutti i dettagli della nuova TAV, l'alta velocità del tratto Torino-Lione, a pagina 14 del Sole 24 Ore. C'è anche una divisione all'interno della sinistra con politica. Il PD sostanzialmente è a favore di questa opera e anche dell'intervento, mentre ieri Di Pietro, Vendola e Di Pietro si sono trovati invece a dire no. No, soprattutto sull'uso della forza. L'ex PM Di Pietro: è stato un errore usare il manganello. Ancora più duro Nichi Vendola, insomma, una TAV che spacca politicamente la sinistra. Sul tema dei rifiuti trovate ancora molto, tante pagine. Rifiuti, ovviamente, quando si parla di rifiuti si parla di Napoli. De Magistris: si arrangi o si dimetta. Così titola il giornale, con l'editoriale di Vittorio Feltri in prima pagina. Caro De Magistris, arrangiati oppure dimettiti. Vittorio Feltri in pratica dice: Napoli deve arrangiarsi, un po' come tutte le realtà locali quando si tratta di rifiuti. Tra l'altro ci sono interviste, c'è la Lega che è molto critica nei confronti della possibilità di esportare, di portare alcuni rifiuti da Napoli nelle altre regioni italiane. E anche il governatore del Friuli Venezia Giulia, Renzo Tondo, intervistato da Repubblica, dice: non sono credibili, stavolta il Friuli dirà di no. Le regioni del nord non possono essere messe periodicamente di fronte a questa emergenza. Un'emergenza periodica è un ossimoro. Che a pochi mesi di distanza ci si ritrovi di fronte sempre al medesimo problema significa che non si è fatto abbastanza per risolverlo. Il popolo friulano è abituato a affrontare le sue difficoltà e a risolverle. Può dare una mano una volta, ma rifiuta a ripetersi di atteggiamenti contrari alla cultura civile. Insomma, c'è questo scontro anche all'interno del governo perché la Lega soprattutto, ma vedete anche alcuni governatori come Renzo Tondo del Popolo della Libertà, dice si vogliono mettere di traverso stavolta i rifiuti napoletani, non li vogliamo. Ne parleremo con il sindaco di Napoli Luigi De Magistris alle 8:20 nell'intervista. Voglio chiudere con la Gazzetta perché insomma c'è un AMSIC a proposito di Napoli, stella del Napoli, AMSIC shock, dice voglio il Milan. Ha fatto questa intervista alla Pravda, che è curioso anche che uno parli alla Pravda per dire voglio andare dal Napoli al Milan. Però se proprio vuole, qua a Milano c'è posto per Marek AMSIC. Troviamo casa e troviamogli uno spazio armadietto nello spogliatoio a Milanello. Grazie, GR.